Sabato 19 marzo, centro sociale ex Snia Viscosa, Aperiror. L'aperitivo a sostegno di Radio Onda Rossa. Dalle 18 diretta con Soul Peanuts. Dalle 19.30 Disaccordo. Ospiti live le Eye Shine. Dalle 21 DJ set a cura di Io te l'avevo detto. Drink e cibare curate dalla radio a sostegno della radio. Sabato 19 marzo, centro sociale ex Snia Viscosa, Aperiror. L'aperitivo a sostegno di Radio Onda Rossa.